benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con NBA Week, la trasmissione settimanale in podcast sulla stagione NBA 2017-2018 per Radio Big World. Si respira aria di playoffs finalmente, più precisamente l'aria dei primissimi scontri. E come al solito le partite diventano a volte combattute, altre volte bellissime. I protagonisti più attesi non si fanno attendere, così come le sorprese. Stiamo registrando di giovedì pomeriggio cercando di fare il punto del primo turno dopo che tutte le squadre si sono incontrate per due volte. Partiamo quindi nuovamente da est per dare un occhio all'avvio di post-season per le 16 squadre impegnate nella corsa al titolo di campione NBA. Toronto Raptors contro Washington Wizards. Come previsto nelle due sfide casalinghe, Toronto si è portata in doppio vantaggio nella serie, in attesa di giocarsi il passaggio del turno nella capitale. Secondo me non sarà facile, quindi difficilmente avremo uno sweep per la vincitrice della Eastern Conference, ma la superiorità di gioco è netta ed il merito va alla splendida gestione stagionale di coach Dwayne Casey. I Raptors vincono le partite con il contributo di una coralità che rende decisive le uscite dalla panchina ed in gara 1 hanno beneficiato di un DeLon Wright a 18 punti e di un CJ Miles protagonista delle azioni decisive con 12 punti totali. I Wizards hanno provato a rispondere con una distribuzione equilibrata delle responsabilità, però tirando peggio, il che ha determinato il parziale finale sfavorevole. In gara 2 il copione è apparso sostanzialmente identico, pur all'emergere di individualità importanti come la prova di John Wall da una parte e quella di DeMar DeRozan dall'altra. In realtà Toronto sfugge subito con un primo quarto da 44 punti totali ed a parte un tentativo di rientro nel terzo da parte degli Wizards, chiude la pratica portandosi sul 2-0. Occhio, occhio, occhio ai Raptors, perché in una Eastern del genere potrebbero davvero essere una sorpresa in chiave finale, anche se a guardare il rendimento stagionale non troppo imprevista. Veramente questa squadra evidenzia una compattezza che va solidificandosi di partita in partita, che sia davvero l'anno buono per il raggiungimento della finale in quel del Canada, staremo a vedere. Cleveland Cavaliers contro Indiana Pacers. Cavaliers troppo brutti per essere veri in gara 1, con una grande parte del merito che va alla strepitosa difesa di Indiana, alla prestazione da All-Stars di un avvelenatissimo Victor Oladipo e dagli sprazzi di grinta ed entusiasmo dell'immortale Lance Stephenson, che quando vede LeBron James impazzisce letteralmente. LeBron la sfida la chiude con una tripla doppia, ma l'atteggiamento rispetto ai compagni di squadra, tra i quali si salvano veramente pochi, appare a volte insofferente, quasi arreso in certe circostanze. Le spaziature in campo non esistono per Cleveland ed il gioco appare macchinoso, inesistente e privo di mordente. Sorpresona della domenica in prime time europeo assolutamente servita quindi, con 32 punti di Oladipo, 16 di Miles Turner e 15 di Bogdanovic, i ragazzi Nate McMillan espugnano la Quick and Loans Arena davanti ad un pubblico incredulo. Come inizia la seconda partita in Ohio? 16 punti consecutivi di King James in gara 2, con Oladipo costretto ad una palla persa e due falli, uno offensivo, nei primissimi minuti. LeBron chiude un primo quarto irreale con 20 punti e lancia il messaggio che tutti si attendevano: vuole trascinare la squadra per riequilibrare la serie. Ma i Pacers sono ossi durissimi da disintegrare e riescono a tornare in contatto già nel secondo quarto. Oladipo chiude comunque la partita con 22 punti ed i suoi avrebbero anche i palloni per tornare a riequilibrare la sfida nei possessi finali, purtroppo per loro fallendo. LeBron James la vince quasi da solo, a parte un eroico Corver partito in quintetto e piccoli sprazzi da parte di Kevin Love. Chiude il re con 46 punti, 12 rimbalzi e 5 assist, ma non può essere sufficiente solo lui per avere la meglio su Collison e compagni, soprattutto nelle prossime sfide in casa di Indiana. Serve quindi un contributo differente da parte del resto dei Cavaliers, magari ritrovando anche un Jeff Green ad oggi assoluto desaparecido. Ah, tra l'altro, a proposito di misteri, chissà cosa c'è dietro il non utilizzo in queste prime due gare di Tristan Thompson. Staremo a vedere se nel proseguo della serie e dei playoffs, chissà per Cleveland se i playoff proseguiranno o meno, verrà riutilizzato o meno. Philadelphia 76ers contro Miami Heat. Philadelphia tornava ai playoff carica di entusiasmo ed informissima, lo sapevamo benissimo, ma l'autentico bombardamento da dietro l'arco che ha steso in gara 1 i Miami Heat è apparso ulteriormente impressionante, soprattutto se si considera l'assenza di un Joel Embiid scalpitante e voglioso di partecipare. Alla fine della gara restano negli annali un 18 su 28 da 3 punti, in un sistema guidato da un Ben Simmons che dimostra un livello di completezza e maturità unica, sfiorando l'ennesima tripla doppia, e che può permettersi di non prendersi responsabilità balistiche quando sugli scarichi può trovarsi vari Redick, Bellinelli, Covington, Saric e Ilyasova, sempre pronti a metterla dentro. Proprio quest'ultimo, Ersan Ilyasova, autore di 17 punti, è arrivato dagli Atlanta Hawks con il nostro Marco Bellinelli, autore anche lui di una prova da 25 punti in gara 1. Due arrivi di metà stagione, due colpi di completamento assolutamente da non sottovalutare. Nella bolgia palpitante della città dell'amore fraterno, gli Heat si lasciano quindi travolgere pur guardando con fiducia a gara 2, dove effettivamente la situazione si ribalta in modo piuttosto sorprendente rispetto all'andamento della prima sfida. Miami si porta a casa gara 2 grazie ad una prova clamorosa di Dwayne Wade, troppo spesso dato per finito senza ragione e che probabilmente, a prescindere da come sia andata, avrebbe fatto più che comodo a LeBron e ai Cleveland Cavaliers, come abbiamo già visto. 28 punti con 11 su 16 dal campo per lui ed i canestri che affossano i giovani 76ers, tra quali spicca di nuovo un Simmons da 24 ed un Bellinelli da 16, stavolta però troppo sprecisi al tiro, 7 su 36 da dietro l'arco. Adesso si va in Florida con la serie in equilibrio e per i Sixers sarà fondamentale sperare nel recupero al più presto possibile di Joelone per evitare brutte sorprese. Boston Celtics contro Milwaukee Bucks. Gara 1 splendida tra queste due squadre, dove Milwaukee paga un pizzico di inesperienza nell'overtime e dove il proverbiale orgoglio dei Celtics emerge più nitido che mai. È una sfida equilibrata che Giannis chiude con 35 punti tra le polemiche per un sesto fallo a suo parere dubbio, dove Malcolm Brogdon dimostra di avere gli attributi per poter impattare la sfida pochi secondi dal termine, prima però di farsi stoppare una delle azioni decisive del supplementare. La gara finisce infatti all'overtime grazie ad un clamoroso tiro di Chris Middleton, praticamente da centrocampo, con 5 decimi di secondo sul cronometro, dopo che uno strepitoso Terry Rozier sembrava aver chiuso la sfida con una tripla in step back. Boston è falcidiata dall'infortunio, lo sappiamo benissimo, ma i 7-8 giocatori in rotazione danno tutto quello che possono e dai possessi decisivi in entrambi i lati del campo ci pensa il rookie Jason Tatum, a dimostrazione della propria completezza e livello di responsabilità raggiunto. Gara 1 è la classica sfida che può lasciare un segno pesante in chi la perde e Milwaukee non riesce a riprendersi la parità della serie nella sfida seguente, soccombendo sotto i 30 punti di Jalen Brown e di 23 del solito Terry Rozier, assolutamente un ottimo sostituto rispetto al Kyrie Irving che non potrà partecipare a questa postseason. L'occasione per tornare ad alzare la testa è rappresentata dalle due sfide casalinghe per i Bucks, ovviamente, anche se l'orgoglio dei Celtics dimostrato in questi primi due episodi lascia poche speranze in quel di Milwaukee. A mio avviso, ovviamente, le speranze di passare il turno sono per loro limitatissime, però staremo a vedere, tutto può ribaltarsi, effettivamente sono i playoff NBA, quindi tutto è possibile. Necessario sarà comunque un cambio di marcia da parte di Eric Bledsoe, onestamente insufficiente nelle prime due sfide, mentre per quanto riguarda il fantasma di Jabari Parker è molto probabile pensarlo in altri lead il prossimo anno. Passiamo alla Western Conference ed iniziamo descrivendo le prime due partite tra Houston e Minnesota, quindi Houston Rockets contro Minnesota Timberwolves. Non è stata esattamente una passeggiata per i Rockets gara 1 in casa. Una partita che i Timberwolves potevano anche impattare nel finale in volata, malgrado la prova irreale di un James Harden che è il motivo principale della vittoria dei ragazzi di D'Antoni. 44 punti per il barbone con attimi di dominio assoluto del gioco, coadiuvato da un Capela che ha raggiunto uno status pazzesco da 24 punti e 12 rimbalzi in questa partita. E dire che nessuna delle stelle di Minnesota era apparsa particolarmente in forma, infatti a tenere in piedi la gara ci ha pensato l'ex Chicago Finest Derrick Rose con 16 punti dalla panchina. Speranze di riequilibrio rinnovate in gara 2 per battere i compagni? Non esattamente. Minnesota infatti prende un'imbarcata decisiva nel secondo quarto, dalla quale non si riprenderà più. Harden si prende un turno di riposo a vantaggio di un Chris Paul da 27 punti e 8 assist. Ci sono anche 21 punti di Gerald Green con 5 triple e 12 rimbalzi. Insomma, la seconda sfida vola via facile facile per Houston, che a mio parere ha tutte le carte in regola per spazzare via nelle prossime due gare i Timberwolves, che sono in assoluta crisi di identità, soprattutto se consideriamo il rendimento del loro quintetto, o più direttamente delle tre stelle Butler, Wiggins e Towns. Urge per loro rapidamente un risveglio, se si vuole sperare di sopravvivere con dignità ancora un po'. Oklahoma City Thunder contro Utah Jazz. Anche questa serie non sarebbe stata facile in avvio, lo sapevamo benissimo. In gara 1 i Thunder possono però beneficiare di uno stato di grazia di Paul George, che chiude con 36 punti la sua sfida, ma soprattutto con un 8 su 11 da dietro l'arco, un giocatore a tratti irreale. Sono le sue triple a scavare i parziali decisivi per il risultato finale, senza dimenticare la solita grinta di un Westbrook che condisce il tutto con 29 punti, 13 rimbalzi ed 8 assist. Ma dall'altra parte ci sono sparazzi di speranza più che giustificata, con un Donovan Mitchell che guida i suoi pur acciaccandosi, chiudendo alla fine con 27 punti. Ed in gara 2 la sorprendente risposta dei Jazz non si lascia attendere. Le due squadre tirano male, ma OKC si subisce l'imbarcata decisiva nel quarto periodo, ancora una volta sotto i colpi di un Mitchell da 28 punti, seppur con 0 su 7 da 3 punti. Ma da dietro l'arco ci pensa Super Ricky Rubio, che aveva tirato malino in gara 1 e che si riscatta con un 5 su 8 da 3. Per i Jazz ognuno fa il suo dovere. Lo spagnolo flirta con la tripla doppia. Gobert segna 13 punti e prende 15 rimbalzi. Favors ne mette a sua volta 20. Dall'altra parte 7 su 19 per Westbrook, 6 su 21 stavolta per George, 6 su 18 per Carmelo Anthony. Metaforicamente si salva soltanto un Jeremy Grant a 13 punti proveniendo dalla panchina. Si va quindi a Salt Lake City con la serie in parità, con l'inerzia e l'entusiasmo però dalla parte dei Jazz, con la disperata ricerca da parte di Oklahoma City di un Anthony che torni ad essere di nuovo decisivo. Servirebbe come l'aria una sua prestazione da trascinatore assoluto in gara 3, chissà se la vedremo mai in questi playoffs che per ora però che sì rischiano di essere più corti del previsto. Portland Trail Blazers contro New Orleans Pelicans. In molti, compresi il sottoscritto, lo avevano detto che questa serie avrebbe potuto regalare un upset clamoroso, almeno rispetto al posizionamento delle due squadre in stagione regolare. Io infatti nel mio pronostico ero andato con Portland, ma le prime due gare mi costringono a ricredermi. Clamoroso 2-0 dei Pelicans in casa di Lillard e compagni, con la possibilità di attentare addirittura uno sweep sfruttando il vantaggio campo nelle prossime due sfide. Tre fattori fondamentali in questa serie, nella determinazione ovviamente delle prime due partite giocate. Tanto per iniziare, il gioco dei Blazers è troppo basato sulle responsabilità offensive di un backcourt formato da Lillard e McCollum, e quando questi due non funzionano in contemporanea è difficile portare a casa le W. In gara 2 infatti i due tirano male, quando si riprendono nel finale riescono a riportare i propri colori in partita seppur in ritardo. In gara 2 le pessime percentuali al tiro sono proseguite, determinando la seconda sconfitta consecutiva nelle due casalinghe disponibili. Che Portland fosse strutturalmente poco equilibrata lo sapevamo, che il loro gioco tremendamente funzionante nella seconda parte di stagione dipendesse dalle percentuali di tiro da fuori altrettanto. Raddrizzare la mano è d'obbligo per non perdere la già decisiva gara 3. Sarà difficile perché il secondo fattore fondamentale di queste prime due gare, dovesse confermarsi su questi livelli, non sarà tanto deciso a permetterlo. Mi riferisco ad Anthony Davis, un Anthony Davis stellare, capace ancora una volta di far vedere al mondo quanto non sia una bestemmia definirlo tra i primi 5 giocatori della Lega. Un giocatore capace di elevare le proprie prestazioni all'aumentare delle responsabilità rispetto alla squadra. Non è una caratteristica da tutti. Il terzo fattore decisivo, inoltre, ancora capace di alzare il livello delle proprie prestazioni all'arrivo dei playoffs, è rappresentato da Rajon Rondo. 16 punti, 10 rimbalzi e 9 assist in gara 2 per lui. Facciamo finta di non vedere, tra l'altro, le 6 palle perse. 17 assist e 8 rimbalzi, sempre per lui, in gara 1. Una gara 1 che, comunque, Anthony Davis aveva dominato offensivamente. Questi numeri sono sufficienti a lasciare intendere quanto il contributo dell'ex Celtics possa essere fondamentale, anche grazie ad un'esperienza conosciutissima. In tutto questo menzione d'onore anche per Jrue Holiday, alla stagione di consacrazione assoluta. Se nel primo incontro fissa il risultato con una giocata difensiva strepitosa, in gara 2 chiude come top scorer di squadra con 33 punti. Difficile davvero per questi Blazers fermare questi Pelicans, a meno che gli equilibri di gioco non mutino drasticamente arrivati a New Orleans. Staremo a vedere. Infine Golden State Warriors contro San Antonio Spurs. Che la squadra di Steve Kerr non si presentasse ai playoffs con l'appeal di armata indistruttibile che ha caratterizzato gli ultimi anni, lo abbiamo detto più volte, anche perché Stephen Curry per adesso non appare destinato a mettere piede in campo nel primo turno. Che San Antonio potesse giocare almeno uno sgambetto nelle prime due sfide all'Oracle Arena era piuttosto improbabile, seppur auspicato per amore del gioco e per il proseguo di una serie che poteva diventare bellissima. Invece i Warriors vincono entrambe le sfide in modo convincente, in particolare gara 1. Quando JaVale McGee gioca una sfida clamorosa sia offensivamente che difensivamente nel limitare la Marcus Aldridge, c'è poco da discutere. A maggior ragione se accanto a lui Durant e Klay Thompson fanno esattamente il loro dovere senza particolari sbavature. San Antonio non appare né presente né convinta nella sfida di esordio, ma prova a lasciare il segno nella seconda delle due sfide esterne. Stavolta Aldridge chiude con 34 punti e 12 rimbalzi, Perry Mills lotta come un leone anche quando la partita sembra sfuggire di mano ai suoi. Sì, perché alla fine la sfida finisce per incanalarsi nel binario di Golden State, se non altro grazie ad un quarto periodo strepitoso di un Klay Thompson da 16 punti nell'ultima frazione per 31 totali. Durant, per non essere da meno, ne mette a referto 32 e tutto sembra mettersi per il meglio per i ragazzi di Kerr che, vincendo in gara 3 in Texas, potrebbero sostanzialmente chiudere la pratica, rilassarsi in vista del secondo turno e concentrarsi sul rientro eventuale del loro leader. Vediamo se Popovic e gli Spurs saranno in grado di impedire questi programmi, laddove ancora una volta l'organico a disposizione è apparso limitato, inferiore, vecchio e forse stanco per riuscirci. Tra l'altro c'è da dire che un lutto gravissimo è occorso a Greg Popovic, la perdita della moglie proprio tra gara 2 e gara 3, il che probabilmente non gli permetterà neanche di essere in panchina. Il morale quindi sarà indubbiamente quello che possiamo immaginarci, ulteriormente peggiorato, seppur si tratti di una questione meno grave a livello di vita, semplicemente questione di gioco, dal fatto che Kawhi Leonard continua a latitare presso i suoi compagni, presso la squadra. Non si sa esattamente dove sia, o quantomeno si dice sia a fare riabilitazione a New York, ma pare abbastanza senza senso a questo punto il fatto che non sia a sostegno dei suoi San Antonio Spurs, tanto che le voci di una sua possibile partenza estiva sono più che lecite. Staremo ovviamente a vedere, si tratta di mercato, ne parleremo alla fine del tutto, comunque giusto puntualizzarlo. Benissimo, comunque, l'appuntamento con i playoffs NBA 2018 è rinnovato alla prossima settimana. Per aggiornamenti eventuali seguiteci sulla nostra pagina Facebook che si chiama ovviamente NBA Week. Per ascoltarci gli appuntamenti non cambiano: tutti i venerdì sera sul flusso streaming di Radio Big World, tutti i sabati mattina sul canale YouTube di Belli 13, tutte le domeniche pomeriggio alle 18 streaming su Radio Valdarno. Grazie per l'ascolto, ci risentiamo tra 7 giorni con NBA Week e con i playoffs NBA.